Batman alle scritture, Ombra alle sinfonie, e questo è solo l'inizio. Privati della nostra stessa natura umana e portati ad impazzire in un sistema che impone lucidità. Vai. Io sono un porco, un sogno contorto scritto sul foglio più sporco di questo hip hop che ho rotto. Sono sconvolto come babbo bastardo, ma non Billy Bob Thornton, intendo Bruce Pardon. Non sono mai risorto tra le ceneri e le lacrime, nemmeno più sopporto che veneri la mia lapide. Sono morto, knockout, sono un corto, blackout. Voglio perso in ogni testo perché questo è Deadly South. Quello fiero, non sei tu. Quello vero, non sei tu. Quello pazzo, quello stronzo, quello sbronzo, non sei tu. Quello duro, non sei tu. Quello puro, non sei tu. Quello pazzo, quello matto, quello fatto, non sei tu. La tua merda stupida non suscita astinenza. Con la mia si centuplica, è l'unica differenza. In questa steppa immensa, per non perdermi in partenza, appena sparso come un pazzo, ogni briciolo di pazienza. Inutile che mimiti, mi irriti e non sei buono. Ho testi espliciti, oltrepasso i limiti del suono. Vecchio, vuoi fare il pazzo, ma te lo dici da solo. Io aspetto solo che me lo dica il mio specchio. Se avessi avuto qualche indizio, solo qualche indizio, ora non sarei qua. Di certo non sarei più qua. Tutto ciò è solo l'inizio, se è solo l'inizio, chissà il futuro che accadrà, che cosa accadrà. Se avessi avuto qualche indizio, solo qualche indizio, ora non sarei qua. Di certo non sarei più qua. Se tutto ciò è solo l'inizio, se è solo l'inizio, chissà il futuro che accadrà, che cosa accadrà. Nell'inverno antartico scrivo un altro Vangelo, col campo semantico di un cantico blasfemo. Tra nomi nuovi scalpito e mi trovi nella lista, tra l'ultimo romantico ed il primo nichilista. Ho la testa che si gela ed ogni sera prende appunti, in questa scatola nera che cela sogni defunti. In questo mondo ingiusto li stenti, li senti tutti, ti svegli col piede giusto rompendo gli inventi punti. Quello fiero, non sei tu. Quello vero, non sei tu. Quello pazzo, quello stronzo, quello sbronzo, non sei tu. Quello puro, non sei tu. Quello pazzo, quello matto, quello fatto, non sei e tu. E faccio a meno di perdere fiato quando prometto che adesso mi limito, perché il dosaggio che mi hai consigliato non lo rispetto, anzi lo triplico. Poi scrivo scuro in viso col cilicio sulla mano, avendo perso il paradiso per un sacrificio umano. Tu non capisci i miei testi, so che vorresti, però mi detesti. Li vorresti meno biblici, ma scrivo geroglifici. Ho solo queste rime perché tutto il resto è noia. Sulla linea di confine tra psicosi e paranoia.